27075, c'è qualcuno? Buonasera 27075, c'è qualcuno? Buonasera 27075, c'è qualcuno? Buonasera 27075, c'è qualcuno? Buonasera 27075, c'è qualcuno? Ehi. Ciao Franco. Ciao Gabri. Mi stavo andando a risponderti perché ero fatto adesso. Cosa me ne pensi? Ma di questa? Ehi, positivo. Cavolo, è buono. Adesso sta saturando. No, però ti porti un bel rumore a freccia adesso. Poco fa era pulita. Ok. Adesso di nuovo buona. Sì, adesso di nuovo buona, però c'hai troppi acuti alti. Troppi acuti alti. Questo qua è il Kenwood di gol col tarne più tremi. Cavolo! È una bomba, Allora non puoi abbassarlo diversamente come acuti, allora rimane così, ma è fortissimo, È forte, è da guerra. Adesso va bene, così è. Sì. È come che parli forzato con la gola, capito? Molto forte. Allora proviamo a abbassare un po' dal microfono. Guarda, vedere, adesso è a due e mezzo. A due e mezzo, però c'hai sempre quell'acuto alto. Magari è proprio la caratteristica di questa radio, di questo microfono. Sì, può essere. Tarne più tre, caspita, qual è quello grigio? Ti mando la foto, Fra. L'ho preso poco fa, gli ho fatto le connessioni. E niente, volevo un parere, dai. Che mi sa ascoltare. Ti sto mandando la foto. Sì, quello grigio. E anche messo bene. Sì, l'ho visto. È uguale a quello che ho io. È positivo, questo qua è il Kenwood col tarne più tre. Buona è come radio, Fra. È accettabile, è fastidiosa, è com'è? Dammi un parere tuo che hai esperienza, dai. Ma ti dico, a me non me la fa dire, mi piace la radio così. Però c'è gente che ti può dire che è fastidiosa, che è troppo alta, capito? Poi dipende dai gusti che uno c'ha ascoltando. Però per me va bene, a me piace la verità. Ma è classica radio da guerra. Caspita, c'è è alta, è una bella radio, è chiara. Sì, l'ho preso da quel ragazzino, mi segue, quelli che sono su Market Plinings. Sì, ho capito. Poi fammi sapere, però là mi fai sapere, non qua. Che mi ha dato? Era basso. Cappa? Sì, buono. Quindi tu dici di chiuderlo, ma perché ho le connessioni aperte qua in radio, ho detto prima di chiudere tutto lo provo, però mi serviva una comparazione seria. Mi segui? Cappa, come ti ho detto, a me piace la radio combattimento, diciamo, perché questa è più da combattimento che una radio da fare salotto, va? Più che altro. Diciamo che come radio è bella, però c'hai molti acuti alti, forti. Sicuramente il tipo di modulazione che ha questo microfono. Sicuramente fra il tipo di modulazione che ha questo microfono. Non ci si può fare niente. Poi quando voglio usare tranquillo metto l'altro che uso sempre e di lì esco tranquillo, mi seguo. Questo va bene a parlare in banda e via. Fammelo sentire in coso, in USB qua. Dai vai. Sì, che sciuga, mamma fa, segnale dalla M alla A. Sevilla è enorme. Sì, è più pulito. banda laterale è più pulita la cosa, è più silenziosa, è più, dai, è più confortevole, diciamo. Ecco, allora cosa state combinando? Sto facendo il microfono, uno solo ne hai preso? Sì, sì, tra, al momento ne ho preso uno perché, dai, ero a lavoro e stavo tornando, mi ha contattato, la verità, l'ora di pranzo, mi ho fatto un paio di cose in capannone e poi sono andato a prenderlo e sono sceso qua a casa, perché stiamo preparando per la stagione, quindi, ma non ci stiamo trattenendo fino a tardi, sì, perché dai, siamo a pieno regime, però la cosa è calma, la cosa è rilassante ancora. Perché se iniziamo già adesso è un casino, fra essere agitati, essere a fare orari strani, perché poi io in stagione rimango anche una settimana che non torno a casa. Ieri notte ce l'avate? Sì, ieri notte stavamo provando una cosa a Contino, in un canale più in alto, però è tardi, a mezzanotte. No, io ci avevo ospiti, se ne sono andati che erano le 11:30, una cosa del genere, e poi non ci sono salito neanche, non ho acceso neanche. Sì, fra, stiamo entrando la notte perché dai, tu tranquilla, meno QRM, meno cose, poi la notte, diciamo un'oretta dopo cena, uno si può trattenere, una volta che dici c'è dalle 9 alle 10:30, fin quanto dura, però poi puoi prendere, ti puoi trattenere un po' di più la sera, chi torna tardi da lavoro e impegni e non ce la fai. Quello sì. E stasera, se c'è Roberto, basta chiedere anche a Roberto il parere. Roberto già te lo dice se va male o no. Sì, però già tu, io mi sono rivolto a te perché già non sono stupido, cioè visi, cantani visi in frequenza, avrà. Non è che cioè sono una persona che posso chiedere, a parte il fatto che hai Radio Siria, non hai giocattoli, e poi si può chiedere una comparazione come si deve. Sempre meglio più di una. Diciamo che io di radio, per me diciamo che è molto molto molto forte la radio tua, quella di stasera che stai usando adesso, però visto cosa stai usando, con che cosa lo stai usando, è perfetta. Sì, lo sai cos'è, fra, che non mi andava giù questa questione che lì come usciva più forte che chi vuole in AM, no, non mi si varava, compreso, non mi scendeva giù, e quindi ho voluto trovare una soluzione drastica per migliorarla. Così te li hai fatti tu oppure che avevi già qualche schema? No, meglio fatti io. Beh, le misure col tester, capito? Ho il manuale del Kenwood e poi meglio misurati col tester. Mi segui? Tanto ci vanno collegati solo 4 fili. Questo tanner, allora, il tanner ne ha 6 di fili, però in uno c'ho sempre alimentazione e quello non l'ho collegata. E poi c'ho il giallo, poi ho il nero che va importante insieme al rosso, e poi c'è il microfono che è il bianco, è una cosa abbastanza semplice, mi segui? Sì, registrato black. A parte che uno mi sembra che tu dovrebbe avere 6 volt, dovrebbe avere. Va bene, avanti il break, buonasera. Ok, ciao Franco, ciao Gavino, bene, me lo ascoltate, avanti Gavino. Oh, ciao Giulio, buonasera Giulio, ben sentito, cordialità, avanti Franco per i saluti a Giulio. Capo, io vi ho salutato, ciao Giulio, comunque dai, ben entrato, avanti. Ok, fa, salutoni, sì, bella radio, capì, la sento leggermente vibrata, però è bella radio, no, non c'è che dire, indubbiamente, e hai fatto un buon adattamento. E qui va bene, però una piccola vibratura la sento, forse mettendoci una spugnetta davanti al microfono riesce anche ad attutire quel leggerissimo vibrato che io sento, perlomeno con questa radio, e poi naturalmente tieni in considerazione che questa è sempre burattino, non è un professionale, per cui non fare molto affidamento, fai affidamento su apparecchiature con registrazione professionali, vai, capito? Senti una saturazione giù? No, non una saturazione, un piccolo vibrato, cioè ha dei toni alti, superiori, diciamo, che magari forse si possono eliminare, non so in che modo, ma suppongo che mettendo un pezzetto di gomma piuma o qualcosa del genere davanti al microfono probabilmente riesce ad attutire anche quello. Perlomeno io la sento così, però ripeto, non fare affidamento perché il mio è un malattino, non è una radio professionale, vai ancora. Adesso lo faccio subito, della spugna con assorbente è apposta per queste cose. Vado in magazzino un attimino, la prendo e la provo. Ne prendi, Fra? Capo, come gli ho detto io poco fa, Giulio, ho detto, c'hai i toni un bel alti, però per essere alti si capisce al 100% perché è chiara la modulazione. Però, come hai detto tu, io guarda, non ci ho neanche pensato, metto una spugna sopra per abbassarli un po'. Ok, Fra, certo, no, ma io la sento così, sia ben chiaro, non è che poi naturalmente io sto sempre ricevendo con un baracchino, per cui non so quanto possa essere affidabile la mia ricezione, è sempre meglio un controllo da una radio professionale, quello è un altro discorso, con un baracchino è sempre un baracchino, comunque io come la sento ho detto tutto lì, ma probabilmente riesce a eliminarla con quella spugnetta, come stavo dicendo. Sei rientrato, Gavi? Sì, sto ritagliando un attimino la spugna, gli sto facendo proprio il cerchio del, diciamo, del tannere e la installo un attimo. Ok, Gavi. Sì, ma comunque è sempre una caratteristica, l'MV più, cioè il danne più 3, lo sappiamo, che ha la tendenza con i toni alti e dunque diciamo super modulati in un certo senso, però la radio è bella, pulita, chiara, non c'è che dire, ma se riuscissi anche a togliere quel leggero vibrato, guarda, sarebbe proprio veramente eccezionale. Vai, Fra. Capo. Vabbè, Gabriele, gliela potevi mettere anche sopra lì per adesso, va a vedere, la tengevi con le dita. Allora, adesso gli ho messo la spugna, guardate un pochino se ha attutito qualcosa, Fra. Ma secondo me ha cambiato un po', vero Giulio? Certo che è cambiato, prova a metterla doppia, Gabino, anche attorno come sta dicendo Franco, mettici un pezzo da attenuante e la fissi così, prova a metterla doppia la gomma piuma, ha cambiato, sì, Gabino, ha cambiato. Ok, adesso è doppia, vedete un pochino se è cambiato qualcosa? Vai, Fra. Cavolo, si è cambiato, adesso è bella la radio, io la sento bella, poi di questo nuovo, adesso gli acuti sono un po' abbassati, quelli alti, avanti Giulio. Sì, diciamo che ha eliminato una parte buona del vibrato, quello sì l'ha eliminata, non ci sono dubbi, vabbè comunque, vabbè dai, non è un problema, comunque sono prove da fare e magari trovi anche un tipo di gomma piuma ancora più fitta probabilmente che andrà ancora meglio, si tratterebbe di fare delle prove e adattare quella che va meglio, Gavi, io perlomeno la penso così, vabbè comunque questa è la mia esperienza dopo 50 anni e oltre di frequenza, vai Gavi. Sì Giulio, no io accetto il consiglio, adesso diciamo che ha centimetri di spessore davanti alla capsula, ho messo 3 centimetri di spessore davanti alla capsula e niente, datevi un parere, vedete voi, vai Giulio. Ok, vabbè, sì, per me va bene, così va bene, non c'è che dire, io ritengo che hai eliminato quel vibrato che si portava presso, che tra l'altro non era fastidioso, sia ben chiaro, però diciamo che c'era, ma se stiamo parlando di fare pulizia al microfono, questo era un sistema adattabile proprio a quel tipo di microfono. Vai Franco. No, a prima li metta e poi diventa un po' cupa. No, ma io quello non lo registro. Io registro una radio un pochino più pulita, premesso che anche prima era bella, bellissima anche, devo dire, però per conto mio ci voleva un pochino di toni bassi, e mettendo quella gomma piuma fa sì che i toni alti vengono attutiti leggermente, per cui ha eliminato quel vibrato che io sentivo. Adesso poi ripeto, io sto sempre ascoltando con una radio baracchino, perciò ci vuole sempre una radio professionale, io non ce l'ho, per cui devi fidarti di più di una radio professionale che del mio baracchino. Vai Gavino. E adesso l'ho tolta perché la sto modellando, e niente, sì, gliela lascio se mi confermate che la cosa è, diciamo, più accettabile con la gomma, diciamo, con la spugna. Gliela metto, beh, io mi devo affidare a voi, giù. Non è il fatto, cioè, l'orecchio, mi segui? L'orecchio, io ci la metto. Allora, adesso c'è la gomma nel microfono, adesso c'è la gomma piuma nel microfono. Oh, un attimino, scusate che mi hanno chiamato, che stanno bussando alla porta e non l'ho sentito poco fa. Ehi, affa, tranquillo, sono qua io. Riprendi Giulio. Ok, vabbè, sì, diciamo che quello scampanellare che c'era, nonno, quando mette la gomma piuma sparisce, dai. Secondo me va meglio così, poi chiaramente no, ognuno ha le sue idee e il suo modo di ricevere, però secondo me, però ripeto ancora una volta, prima non c'era nessun fastidio, andava benissimo ugualmente, però c'era quel vibrato, cioè quella scampanellatura della modulazione, c'era, che poi naturalmente potrebbe essere anche la distanza per cui da come tu la usi, può darsi che allontanandoti magari migliorava ancora anche senza la gomma piuma, insomma sono prove da fare. Oh Gavi, siamo qua, non c'è problema, fai tutte le prove che credi e poi ti dirò io perlomeno. Allora Giulio, adesso ho messo a un quarto, sono a un quarto e il microfono ce l'ho a 50 centimetri dalla bocca, e niente, senza gomma piuma. E così va bene lo stesso, vedi? Così non scampanella, assolutamente, ecco, vedi? Anche quello è una prova da fare, però, ripeto, a quel punto deve sempre affidarsi ad una radio professionale, perché io sì, ho una buona ricezione, perché è un baracchino che ha una buonissima ricezione, con 4 watt mi sembra addirittura, non i soliti 2 watt nel mio altoparlante, per cui 4 watt intendo come ricezione, non come trasmissione, è sempre quella, 2 watt, ma come ricezione è un altoparlante che può ricevere 4 watt tranquillamente, per cui la sento bene, allontanandoti la sento bene, allo stesso modo come quando c'è la gomma piuma. È positivo, adesso guarda, sono alla stessa distanza con la gomma piuma e ho alzato un pochino il Mac Gain e niente, però adesso c'è la gomma piuma, uno strato di gomma piuma. Va benissimo così com'è, non c'è che dire, va benissimo, la distanza che hai modulato adesso, lo strato di gomma piuma e il volume che hai dato al microfono, va ottimamente bene. Ok, perfetto. No, ho voluto abbinare questa cosa qua perché ho pensato che con questo tipo di microfono la radio diventasse un pochino più forte, mi segui? Niente a che vedere magari con l'MC80, perché quello là dava amplificazione e basta, questo qua però dà un po' più di corposità. Io questo, il microfono l'ho avuto quando ho iniziato, ti ricordi, un po' di anni fa, e poi l'avevo venduto, ma era un ICB, però con questi apparecchi qui non l'ho mai provato. Sì, va benissimo, Gabi, no, non c'è che dire. mancherebbe altro, però per me il numero uno per K è sempre il 60, e intendo qualsiasi K, il 140, il 440, il 680, il 940, tutti insomma, ecco, tutti i K per me l'unico microfono che va bene veramente, perlomeno a me piace quello, è il 60. Sì, ebbè, sì, giù, su quello non ci piove, però bisogna accettare, a volte a me piace molto la diversità, quindi magari trovare questa cosa qui è una, magari per me è una cosa nuova, perché dai, un po' la diversità va bene, un po', però quando avrò coso di prenderlo, un MC60 me lo prenderò senza dubbio, perché diciamo è il come si dice, è la morte sua, così è giù. Sì, per me, perlomeno, io dico, per me è il numero uno, per K, il 70 per me è il numero uno, premesso che ci sono anche altri microfoni buoni, e poi c'è anche da dire questo, l'MB più 4, l'umanissimo MB più 4, anche quello si abbina molto, ma molto bene, anche quello io lo ascolto molto bene, non è mai pari al 60, però si avvicina molto, l'MB più 4, perlomeno quello, l'ultimo, cioè il primo tipo, prima versione, come quello che ho io praticamente, che è quello che sto usando adesso, però io lo sto usando nel baracchino, per cui è tutto un altro discorso, non si può paragonare quando si usa con un K. Sì, tu avevi 60 se non sbaglio, vero, giù al K? Sì, il 60, sì. Bello, da tutta un'altra modulazione, giù, senza ombra di dubbio. Però adesso facciamo questa piccola esperienza con questo abbinamento e vediamo un po' più in là se magari prendere un 60 e provarlo, mi segui? Oh, scusate, vi devo lasciare che mi è arrivato gente, non ce la faccio a rimanere in radio. Ci sentiamo magari dopo più, oppure stanotte, dai. Ciao Giulio, ciao a te Gavì, buon proseguo, davanti a te Giulio. Ok, ciao a Franco, ci sentiamo, dai, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo, vai Gavì. Sì, ciao Fra, grazie della cortesia di avermi il risposto e avermi dato il tuo parere, grazie ancora, gentilissimo. Sì, io non c'è problema, le radio ce le ho accese, quindi quando vuoi, come ti dico sempre, tiro una pietra e ti rispondo. Ciao Franco, tutto alle prossime, grazie ancora. Cappa, e grazie all'amico che mi ha messo una portante quando stavo parlando Giulio. Ciao. Sì, l'ha messa anche quando stavi parlando tu, Fra, perciò non ti preoccupare, lascialo fare. Vai, Gavì. Sì, vabbè, lasciali fare. A me, io anche se c'è la portante ti copio benissimo, infatti quando la mettono non bisogna neanche farci caso, perché è proprio una portante bassa, mi segui, non è una cosa che ti copre. Cioè addirittura tu pensa che mettono una portante, tu stai uscendo con 4 watt, mettono una portante e li passi. Per fare così non l'avrei neanche messo, sinceramente. Giù. È una cosa inutile, avanti. Ok, Gavì, con 2 watt, io sto uscendo con 2 watt. Vabbè, comunque, lasciamolo giocare, no, non è un problema, dai. Sì, comunque è così, Gavì. Ripeto, anche l'MB più 4, sempre con 4 contatti, naturalmente, perché il K ne ha 8, dunque fatta la conversione con uno spezzone, così, avanti Gavì. È positivo. No, l'ha rimesso la portante, però ha sbagliato e si è sentita la voce. Avanti giù. Si è sentita la voce. vabbè, allora, avanti amico. Sta facendo i giochettini. vuole scherzare, avanti l'amico che dai, entra, si è sentita la voce intanto, avanti. E non entra però. E giù. Che suga. Cos'è l'altro mondo, guys? Almeno ammazza da chi chiede alla radio di fare queste cose. Sì, va bene, forse voglio di scherzare, dai, non è un problema. Capito, Gabi? Per cui, ripeto, le comparazioni si fanno, però ripeto, quello è un buon abbinamento, il tranne più tre è un buon abbinamento. Sì, grazie Giulio. Io ti ringrazio per essere intervenuto a parlarmi della tua comparazione, che è una cosa che è sempre gradita da parte mia. Ok, ma ero appena arrivato, ero l'ascolto e avevo capito che stavi provando quel microfono lì e appunto sono voluto intervenire, oltre al fatto che mi fa piacere ascoltarti e chiacchierare con te e anche con Franco che c'era poc'anzi, ma adesso Franco si è dovuto assentare e va bene così, avanti Gabriele. Sì, si va magari perché gli è arrivata gente, ha dovuto chiudere. Però la notte stiamo entrando, tranquilli, sereni, stiamo facendo dei bei QSO giù. Io la notte seguo la televisione, soprattutto quando ci sono partite di calcio, eccetera, seguo molto la televisione la notte, poi magari quando finisce ho un film o una partita, magari entro, accendo e ascolto come, ma sento magari uno spezzone di QSO, perché poi a quell'ora è tardi, per cui si va a letto e basta, tutto lì, va bene. Ho portato l'ultimo pezzo giù perché è salito un po' di QRM, mi è salito un po' di QRM, comunque ho capito che la notte ci sono le partite e poi ti viene male, quando sono le partite e poi ti viene male. Dai, guardi la televisione. Caspita, mi sta salendo, c'ho un po' di QRM, c'ho il QRM a 9, è molto alto. Succede perché c'è anche propagazione in questo periodo, per cui allora può succedere, capito? Sì, un po' di propagazione. E però non è mai a favore nostro. Ok, vabbè, comunque va bene così lo stesso, non è un problema. Ma boh, dai Gabi, io ti lascio, mi dispiace lasciarti, però devo scendere e dunque ho qualcosina ancora da fare, controllare anche se ci vuole carburante dentro la stufa, perché è tutto il giorno che sta funzionando e non so a che livello è il pellet. Ci sentiamo eventualmente un altro momento. Ciao Gabino, grazie per la chiacchierata. Giulio, ti ho perso, c'ho un buon autobus americano, lo sai che mi sta arrivando 9:20. Si è messo in banda laterale, si è messo il portantista, ho capito. Giulio, ci sei ancora? Sto chiedendo, ho detto, è in banda laterale probabilmente. Forse il portantista è in banda laterale, si è messo. Vabbè, dai, capito, ci sentiamo, ciao, le prossime. Sì, ho sentito giù, mi ho copiato solo ciao, le prossime. E a Giulio, grazie di nuovo, è sempre un piacere, quando vuoi, io sono, dai, mi fa piacere scambiare quattro chiacchiere. Ti ringrazio ancora della tua comparazione preziosa, ci sentiamo tutti alle prossime, ciao Giulio, buona serata e buon tutto. Ciao Gabi, ciao anche all'amico portantista, comunque Gabi fosse così lo passo lo stesso, non c'è problema, vai, ci sentiamo, ciao Gabi. Bravo. Eia. Ciao Giulio, adesso sei passato alla grande. Ciao Giulio di nuovo, buona serata. di essere chissà chi, forse non lo sa che ho molta esperienza più di lui in frequenza. Va bene, dai, ciao Gabi, ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao. Quindi deve essere lì, è capito. infatti chi c'era? Giovanni, chi c'era caro? Ah, Antonello. Ah, ciao Tonino, ben sentito. Stavo parlando con mio nipote. Lo senti? Ma cosa sei? Ma sei parlato un ascolto io qua? Ah, lo so io, come lo so? Io non penso, comunque. Se non ti senti, vai a camera tua. Ah, ecco Giovanna che non ti sente. Quindi. Ora qua vedrà 9.50, prima che tu. Vabbè, a me non so se mi ascolti. Com'è questa radio, Antonè? Luca, prova un po', fa un passaggio. Cioè, dopo mezz'ora che sto parlando mi dici fa un passaggio. Vabbè, non ti posso dare segnale, se no, no. 9.10, 9.15 e 9.5. Ma è amplificato normale l'amplificazione, non ce n'è? Sì, sì, l'amplificazione c'è. Tino! Uova! Buonasera, Tino, ben sentito! Chiappa, ciao, buonasera, capito. Buonasera, Antonello. E metti, ripresa? Pare, però dobbiamo fare delle prove, dai. Com'è la radio? Buona, ottima, pulita e forte. E questa com'è, Tino? Ti va? Beh, non è come quella, scusa Antonella, non è come quella di ieri, però già va bene, va bene. Che non è come quella di ieri, dovrebbe essere più forte. No, no, ho capito cosa stai usando, però te l'ho detto io. Ai, ma veramente, esci a vedere se va meglio così o come, guarda a vedere un pochino ti. Vabbè, adesso è stato un pochino l'amplificazione, magari ti sei avvicinato, è più amplificato ora, Poc'anzi era mi. Positivo. Antone, come mi copi da te? 9.15, alle 5 qua. No, ma la radio è forte, Antone. Non la voglia. Sì, no, allora c'hai prosciutto. Lascia il cuore dell'Antonello che non si ascolta con il nipote che è in camera. Ah, però è vero, vai, c'è che va laggiù. Aspetta, dove va? Dimmi. Diglielo un attimo che mi coglionito, diglielo. Dice che io non mi ascolto con te, mi ha detto. Per forza ce l'hai sotto il piano, cosa vuoi di più? Ma a me mi ascolta. Ha detto Tino che io sono incoglionito perché non sento a te, che sei vicino sotto casa mia. Mi ha detto, capito? Figurati, vabbè, mi hai messo un bambino Tino, fregatene di quello. Cazzo si vado. Vabbè, io mi devo spostare. Eia, così ha detto. Senti. Antonio, tutti siamo rimasti. Dai, io vado là, un attimino, dai, se vuoi chiedere una cosa. Vai. Quindi, Tino, lo senta Giovanna, no? Muscolo, ci sei. Tino, sparito. Avanti Giovanna. Antonio, sto un po' aspettando, aspetta. C'è una radio allucinante qua, veramente bella, Mai sentita così bene in vita mia con l'MDP4. Avanti. Davino è fuggito. Non c'è nessuno? Siamo solamente noi due adesso, per il momento. Poi qualcuno già entrerà dopo. Io comunque ti sento benissimo. A voglia. 9.50. Piacere, tu sei su. So che tu sei su, io sono sopra e tu sei sotto, quindi. Però c'è una bella radio, ma veramente chiara, sai, chiara, come se fossi a fianco a me. Domani attacchiamo l'ordinale, lo attacchiamo domani, il lineare, così almeno esci con 100 watt, a voglia, a rotta, a più, e più. Aspetta un attimo. Allora, dunque. Le voci di potenza. Ora prova. Ah, c'è quella mia segnale 7, figurati. Ciucchicciù. Allo, ciucu ciu, ciucu ciu, ciucu ciu. Cosa signora, il cane è chiuso le porte. Ha chiuso le porte? Perché non le chiude? No, le apre. Ah, fa il contrario. Ma è vero, è giusto. È una testina. Sembriamo noi a aprire e chiudere le porte. Poi se c'è qualcuno che lo conosce, gli dimostra la ventiera quando arrivano tipo quelli delle... tipo quelli dell'enemy dell'acqua, del coso, si pensa tra la ventiera e dice no, tu quando mentre. Sì, questo ti butta la porta a terra, quando mentre. Sì, esagerata. Avanti, ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu, avanti. Sì, ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu, avanti. Sparito, sì. Ah, a me c'era? No, c'era un ciucu ciucu, è sparito. Ci faccio un cane che sta in lupo. E il parito ha fatto un ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu. Vabbè, il parito, boh. Adesso mettono il piace, boh. Cosa ne so. Ma mi senti con che voodoo, sì, con lo 140. Giova. Dimmi, Antona. Se mi senti bene, ho detto con 140. Con microfono normale, sono con quello. Con microfono normale. Devo usare l'altro? Aspetta, un secondo che attacco l'MPP5. Vedo la distanza che c'è, due secondi, eh? Non ho capito niente, dimmi. 1, 2, 3. Con questo microfono come mi senti? 1, 2, 3, 4, va bene? Anna, 1, 2, 3, ci sei? Ola, ola, ola, ola, ola. Giovanna. Ola, ola, mi chiamo Tizio. Tu come ti chiami? Mi senti bene? Io ti sento, tu mi senti. A voglia, ti sento, non c'è problema. Ti chiama? Sto usando il microfono più ficcato. Come ti chiama? Mi chiamo Antonello, il torero Antonello. Un placer Antonello. Se mi parli sopra, aspetta, cosa ne so? Non stai intendo. Come lo mi senti? Che mi cuenta? Ascolta in spagnolo, non ne capisco una fancura. Che mi cuenta, Santonello? Io non chiedo su niente. Io... È esuberante. Ciao, andiamo ad esempio. Stai fischiando. Stai fischiando, Giovanni. C'è un fischio strano. Allora faccia quell'effetto. Non l'ha fatto fino a poco fa. Aspetta un secondo che scendo il codice 4000, un attimo. E vediamo il problema. Io salgo sull'altro e ti scendo l'altro giù. 2 minuti.